Secondo me, come tutte le situazioni di questo tipo, devono essere analizzate un po' in maniera analitica. Ci sono vari elementi, è un cocktail di motivazioni, quello che ha portato oggi a vedere lo spread scendere così in basso. Allora, in primis, io non sono tanto d'accordo che non ci sia il fiscal cliff. È vero che è un mini accordo, è vero che in qualche modo era scontato, però comunque non si aveva la certezza che si arrivasse ad avere un accordo fra i repubblicani e la Casa Bianca. Avere un mini accordo comunque fa pensare che un'eventuale recessione negli Stati Uniti, cosa che sarebbe potuta avvenire nell'ipotesi in cui, ancora adesso c'è l'ipotesi, ma un po' più lontana, avvenisse perché l'accordo non c'è stato, avrebbe provocato di conseguenza un ulteriore aggravarsi dell'andamento delle economie in Europa, soprattutto in quei paesi dell'area euro periferica dove ci sono in atto delle manovre di austerity che non dimentichiamoci, sono quelle che hanno anche contribuito ad aiutare lo spread a scendere, non solo queste. Evidentemente, se questo accordo non ci fosse stato, queste manovre, queste riforme avrebbero non avuto vita difficile, ma sarebbero diventate veramente impossibili da praticare a fronte di un'economia che ancora va peggio di quella che quanto sta andando adesso. E quindi, in questo senso, gli operatori vedono comunque uno scampato pericolo. Ok, il livello di base minimo per poter continuare sulle riforme dal fronte di una recessione potenziale ulteriormente maggiore, in questo momento è allontanato. Non dico che non c'è, è allontanato. Ed ecco che allora c'è meno stress. E quindi ecco che allora un mini accordo comunque ha dato un po' di sollievo. Ed è per questo che in qualche modo il fiscal cliff, non sono d'accordo, quello che dicevi tu, non c'entra completamente. C'entra in parte.